si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, l'appuntamento con l'altra attualità, l'altra cronaca, la settimana a mezzogiorno, il sabato e la domenica su Radio 24, le nostre buone notizie, le piccole storie virtuose, insomma le cose che normalmente non si fila nessuno, però sono quelle che ci salveranno, le cose che ci salveranno o che almeno ci faranno stare meglio. Cose così, per esempio, a Milano il Comune apre i campus scuola anche a Natale, corsi all'elementare dal 27 dicembre al 4 gennaio, il vice sindaco Maria Grazia Guida dice un aiuto contro la crisi. Leggiamo la decisione del comune che ha stanziato 200.000 euro per finanziare un bando aperto a enti no profit e cooperative disponibili a curare i campus invernali, primo esperimento in chiave natalizia dei più noti campus estivi che da anni Palazzo Marino organizza per salvare i genitori che lavorano quando scatta la chiusura delle classi a inizio giugno e in questo caso a inizio di feste di Natale. Dunque una buona notizia per i genitori milanesi e per chi ha figli naturalmente e anche per chi ha un reddito basso, perché questi campus saranno gratuiti. Un'altra segnalazione viene da Roma: concerto con strumenti musicali riciclati all'Auditorium di Roma. L'iniziativa domenica prossima all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Gli organizzatori lo descrivono con queste parole: chitarre realizzate con manici di scopa, batterie con bidoni di latta, c'è chi suona persino gli elettrodomestici, l'eco concerto di Natale, insomma un'iniziativa per sensibilizzare sul riciclo ma anche per divertirsi in musica. L'altra notizia, segnalazione natalizia, arriva da Ravenna. È giusto che si sappia che l'albero di Natale in piazza a Ravenna è stato donato da un privato cittadino che con la sua donazione ha reso possibile anche a Ravenna, con risparmio diciamo dei soldi, pochi forse, però insomma quelli sì, del comune, di festeggiare gli addobbi insomma natalizi in piazza a Ravenna. È un tempo insomma le ricche famiglie donavano cose alle loro città, adesso siamo ridotti all'albero di Natale, però prendiamoci almeno quello. Noi aspettiamo le vostre buone notizie sulla pagina Facebook del programma, si può fare tantino Radio 24, siamo anche su Facebook, si può fare 24, io Ale Maurizi, insomma da tutte le parti, c'è anche la mail, si può fare radio24.it, scriveteci. E poi sappiate che da gennaio lanceremo un concorso, si vinceranno dei premi, si tratterà di votare le migliori storie di quest'anno. Adesso per il momento fermiamoci qua. Siamo partiti un po' pesantucci con i Metallica, Seek and Destroy, perché parliamo di distruggere. Distruggere che cosa? Un ecomostro. Allora, tirar giù gli ecomostri è già una bella cosa. Se poi, come in questo caso, l'ecomostro è di proprietà dell'assessore che fa parte del comune che ha deliberato questo abbattimento, beh, la notizia è doppiamente positiva, vuol dire che il comune non si ferma di fronte a niente. La notizia viene da Realmonte, salutiamo il sindaco Piero Puccio, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Ci spieghi un po' che cosa è successo con questa delibera che prevede appunto l'abbattimento dell'ecomostro noto per chi è della zona di Realmonte, per l'esattezza adesso lei ci dirà, siamo a Capo Rossello. Capo Rossello, esattamente. Però c'è stato il giallo in questa delibera, perché l'ecomostro è di proprietà di un assessore. Sì, effettivamente, detta così è un po' strano, effettivamente. Questi ecomostri sono stati realizzati nel 90-92 con delle vecchissime concessioni edilizie rilasciate allora dall'allora sindaco. Anche allora per Italia 90 forse? può darsi. No, comunque il mio assessore l'ha ereditati dal papà, era un terreno del padre. Sì, perché noi qua a Milano ne abbiamo appena e i familiari. Ne abbiamo appena distrutto uno nella zona del Lambro, qua a Milano, che derivava proprio da Italia 90. Ma insomma, veniamo invece a voi. Stavo dicendo? sì, dico, è stato ereditato dal mio assessore e dai familiari, uno di questi ecomostri, altri erano di altri proprietari. Mm-hmm. Comunque, perché quanti sono in totale? Sono tre strutture, due da una concessione edilizia e uno, quello dell'assessore, sì, da un'altra concessione edilizia rilasciata dal papà. Praticamente la storia è un po' vecchia, sì, da tantissimi anni, da più di un ventennio che si sta sui tribunali, sulle aule dei tribunali. Ecco, però adesso la procura, io sintetizzo perché bisogna, per perfetto, forza, la storia, sì, è lunga, sì, sì, è intervenuta sul fatto che queste sentenze erano rimaste ineseguite, cioè dovete proprio buttarli giù, insomma, perfetto, datevi una, sì, mossa. La procura ha un po' accelerato quello che già stavamo, sì, facendo. Mm. Io mi sono insediato nel 2010 e già avevo incaricato un nostro legale per vedere un po' questa faccenda, questa storia, perché, sì, i proprietari già si erano rivolti al TAR, successivamente al CGA, mm-hmm, quindi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, per un po' per risolvere questo problema. Cioè, volevano scongiurare l'abbattimento, in sostanza. E volevano provare a salvare, perché allora la sanatoria glielo consentiva. Però, guardando le foto, mi sembra che ci sia poco da salvare ormai di questi scheletri orrendi, infatti, di non farne un museo proprio degli ecomostri. Infatti, insomma, sì, perché non si risolveva nulla, si abbattevano, neanche, bravo, si completavano. Quindi e invece adesso poi cosa succede? Quando li abbatterete? Li abbatterete? Allora, noi abbiamo fatto tutto ordinanza di demolizione e abbiamo intimato ai proprietari entro 90 giorni, perché la legge consente questo, di abbatterli. Se non lo faranno loro, lo farete voi. A spese loro. Quanto costa, sì, abbattere un ecomostro come quello di quello che riguarda il vostro comune? Non lo so così, non glielo so dire, io penso un 20-30 mila euro, credo che si riesca. Perché è uno dei problemi, no, sindaco? Cioè, che spesso si individuano delle cose orrende da buttare giù, che deturpano, che non sono mai servite a nulla, dei veri scempi, però poi bisogna spendere per abbatterli, per smaltire le macerie, e quindi spesso i comuni si fermano di fronte a questo. Sì, ma infatti, no, ma io. Voi non vi fermerete? No, ma penso che i proprietari lo faranno comunque. Proprio perché c'è di mezzo, tra l'altro, anche l'assessore, quindi magari questa diventa una garanzia in più in questo caso. Sì, in questo caso sì, paradossalmente sì. Senta, comunque non ho avuto pressione, quello che ci tengo a dire è che non ho avuto pressione da parte sua e neanche da parte degli altri proprietari, perché il nostro è un comune piccolo, bravo, un po' ci conosciamo tutti. Un comune piccolo, vi conoscete, siamo in provincia di Agrigento, lo dico per chi non lo sapesse. Esatto. Lei se la sente di sbilanciarsi su una data, se sente di garantirci, poi ci salutiamo, quando, passando di lì, non si vedranno più questi ecomostri? E loro hanno 3 mesi di tempo, quindi meno di 3 mesi dovrebbero farlo. Fra 3 mesi esatti, anche meno, verremo di nuovo a suonare al vostro campanello, sindaco. Infatti, con la speranza che non ci saranno altre opposizioni, ma credo di no, perché anche la procura ci sta dando una mano. E insomma, avete sentito, cari ascoltatori, la notizia da Real Monte, l'abbattimento di questo ecomostro, di questi 3 ecomostri che si annuncia entro 3 mesi, speriamo, e ce ne sono tanti purtroppo di scempi di questo genere in tutta Italia. Segnalateci, cari ascoltatori, se le amministrazioni comunali, insomma i sindaci, le giunte dove vivete voi, stanno con coraggio, come accadrà a Real Monte, affrontando anche questi argomenti. E vi aspettiamo sui nostri canali, la pagina Facebook si può fare Radio 24. Scriveteci se siete a conoscenza di storie come queste. Intanto adesso andiamo ad Alessandria. Nelle pagine del mio diario ricordo di un lavoro precario. Tutti dicono porta pazienza, ti dà la cinghia e arrangia di senza. Mi hanno detto di darmi da fare, fatti conosce, continuo a sperare. La speranza però non si mangia e va a finire che uno si arrangia. Non siamo riusciti a mangiare un'idea, abbiamo fallito il colloquio all'Ikea. Mille attestati e una laurea in tasca, abbiamo capito che questo non basta. Inoccupati erano i tagliati, che invidiano pure i cassi integrati. Giovani e vecchi in mezzo ai tormenti, poche speranze, licenziamenti. La ballata del disoccupato dello sconosciuto Joe è nata per anche sorridere di questa condizione della disoccupazione. Salutiamo subito e poi spiegheremo perché il nostro ospite, l'amico Antonino. Buongiorno Antonino. Buongiorno a lei. Buongiorno. Da Alessandria. Buongiorno. La notizia è questa: sprechi zero ad Alessandria, il Cargo Bike consegna ogni giorno il cibo invenduto ai più bisognosi. C'è una bicicletta con un frigorifero che trasporta ogni sera cibi che non vengono venduti in vari negozi, adesso lei ci dirà dove esattamente, e li porta a chi ha bisogno. Una bella iniziativa, dietro però c'è anche una bella persona, lei Antonino, che grazie, ha trovato essendo disoccupato, un lavoro, o meglio una borsa lavoro, perché iniziativa della Caritas, del Banco Alimentare, gruppo volontariato vincenziano, e lei sta in mezzo. Non si è offeso, no, se abbiamo scherzato un po' sulla disoccupazione? Perché, no, anzi, guardi, mi viene da dire oggi sentire qualcuno che è occupato. Come? Mi viene da ridere, nel senso, sentire qualcuno che mi dice che è occupato. Cioè, cioè lei dice ride per chi lavora, dice con tutta la disoccupazione che c'è, perché proprio io dovrei andare a lavorare? In effetti, anche questo è vero. Andiamo in Italia, soprattutto. Senta, lei appunto da qualche mese... Io da agosto, questo progetto è iniziato da agosto, che in collaborazione tra Cittadina e Caritas, e questo progetto che appunto si chiama Recuperiamoci, sì. Appunto è sta bici, è la Carco Bike, è una bici un po' particolare, che c'è il cassone avanti, dove ci sono anche due contenitori termici. Io vado nelle panetterie, nei negozi del centro di Alessandria, e loro mi danno quello che appunto... Senta, ma Alessandria come in pianura? Adesso io non conosco la città. Allora, nella zona centrale proprio. Mm. Allora, piazza della Lega. Sì. Piazza della Lega? Piazza della Lega. Della Lega. Ma non la Lega, quella di Bossi? Sarà... No. Credo di no. Vabbè, insomma. Ecco, ma ci racconti bene, da dove parte lei ogni sera? Allora, io parto dalla sede della Caritas. Sì. Prende il cargo bike, la bicicletta. Sì, il cargo bike, quindi vado alla prima tappa, vado a questa panetteria che è in via San Lorenzo, di Alessandria, piazza della Lega. Da chi è gestita questa panetteria? Si chiama appunto anche la panetteria, si chiama La Piazzetta. La Piazzetta. Quindi è gestita appunto da una signora, cioè la titolare, una signora. Sì. Che ha aderito a questa iniziativa della Caritas. Sì, ha aderito a questa iniziativa, in effetti, sì. E lei e quanti altri commercianti, insomma, hanno aderito a questa? Guardi, io attualmente, allora, che faccio io appunto la sera, sono due panetterie, un bar anzi, è un'altra panetteria che si è chiusa da poco, anche se al momento, non tutte le sere, diciamo, un po' a chiamata, ecco. A seconda se hanno o non hanno cose da dare. Sì. E poi alla fine del giro dove le porta? Le porta dove hanno bisogno? Negli ostelli, in effetti. Negli ostelli, cioè l'ostello maschile e quello femminile. Mi sembra di capire che sono 100 le famiglie che stanno vivendo anche, no, naturalmente non solo grazie a questo aiuto che voi avete messo in piedi, che lei, insomma, coraggiosamente ogni sera, tra l'altro adesso sfidando anche il freddo, rende possibile ogni sera. È un'occupazione per lei, diciamo, ovviamente precaria, non è che uno possa pensare a un futuro solo su questo, però visto che lei risponde a un bisogno che c'è, reale, se tirassero fuori dei fondi, insomma, lei andrebbe avanti con questa cosa, si sentirebbe bene a farlo? Credo che alla fine, cioè naturalmente, come no, credo che un lavoro, se parliamo di lavoro, voglio dire, venga, quindi non è poi importanza se uno va con la bici o in macchina o col furgone o quello che fa. Alla fine non credo ci sia niente. Cioè, certo, anzi. Lo faccio già ben volentieri così, figuriamoci se fosse vero. Cioè, già è un lavoro in se stesso, anche perché poi, indipendentemente, diciamo, è un impegno, diciamo, più che altro. Un impegno forse anche abbastanza particolare, perché rispetto ad altri tipologie di lavoro, magari altri impegni. Questo si ha a che fare con delle persone, con delle soprattutto. Anche un'esperienza che può arricchire anche sotto il profilo umano, naturalmente. Perfetto. Poi, naturalmente, alla fine del mese non si vive solo di aspetti umani, si vive anche d'altro. E noi le auguriamo, Antonino, di trovare in questo campo o in altri un'occupazione stabile, sicura. Intanto grazie per essere stato con noi, grazie anche per quello che fa ogni sera, cioè portare col cargo bike cibi che altrimenti sarebbero buttati via a chi li apprezza e li accetta ben volentieri. Insomma, nel campo dei lavori come questo, il portantino in bicicletta, lavori che adesso vengono riscoperti, di iniziative ce ne sono molte, nella green economy per esempio se ne sta parlando, magari anche con qualche profilo professionale in più anche a Milano. E allora adesso col prossimo ospite. It's a magic number, yes it is, it's a magic number, because two times three is six, and 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Questo è il nostro mantra quando parliamo di green economy. E salutiamo allora Marco Gisotti, coordinatore Green Jobs. Se ne ha parlato in questi giorni a Milano al forum Compra Verde. Buongiorno Gisotti. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Sì, qui al Forum Compromesso quest'anno si è svolto Green Jobs, primo salone internazionale dei lavori verdi, in effetti. E proprio da qua volevamo partire perché insomma abbiamo sentito la storia di Antonino che fa il portantino in bicicletta per la Caritas e insomma i Pony Express per esempio zero emissioni si stanno diffondendo in varie città, ne abbiamo parlato anche noi, è una delle tante iniziative che caratterizzano un po' il mondo del lavoro in crescita nel settore della green economy, lei che è anche tra l'altro felice autore di guida ai Green Jobs, anche alla luce delle nuove tendenze emerse nella discussione di questi giorni a Milano. Ci faccia una rinfrescata di quelle che possono essere delle speranze, delle opportunità per uscire a testa alta dalla crisi. Ma si esce bene dalla crisi per tutti quei giovani che oggi abbiano deciso di dedicarsi appunto alla tematica ambientale, ma con una speccata propensione verso diciamo i profili tecnico-scientifici che sono quelli più richiesti. D'altronde i dati parlano chiaro, ormai un'impresa su 4 in Italia è praticamente un'azienda del settore della green economy, addirittura della chimica che tradizionalmente è stata per decenni nemica dell'ambiente, addirittura il 40% delle aziende chimiche sono ormai green, anche se paradossalmente in Italia, e questo ascoltate ragazzi che seguite la trasmissione, sì. L'anno scorso ci sono stati 119 laureati in chimica industriale contro 42.000 economisti. No, un momento, fermiamoci un attimo su questo dato che a parte che è chimica, mi scusi, ma è più difficilina di economia e questo già bisogna dirlo. È vero, però. Però bisogna... quanto? 100 contro 42.000? 119 contro 42.000. Cioè, ci sono stati 42.000 laureati complessivamente o nuovi laureati? In tutta Italia? Nuovi laureati in tutta Italia. Nuovi laureati in economia 42.000? Sì. È un dato clamoroso, tutti disoccupati, invece questi chimici... I chimici c'è una sete enorme del settore, perché il settore sta attraversando una riconversione, una trasformazione molto radicale, appunto, verso l'ambiente, le bonifiche, i nuovi materiali, i nuovi processi di produzione, però non si riescono a trovare. E diciamo anche una cosa, che non è una moda questa dei lavori green, ma è una necessità contro la quale si va a sbattere e allora se si vuole continuare a produrre, per esempio anche nel settore delle merci, dell'industria, la chimica, lei diceva, insomma, la sostenibilità è diventata una chiave inevitabile, vincente. Pensiamo all'edilizia, l'edilizia che è stata per anni un settore trainante dell'economia italiana, oggi è in crisi e tutto il settore sta vivendo oggi una trasformazione perché nel 2020, per esempio, le nuove case dovranno tutte seguire in maniera ferrea criteri di bioedilizia, dovranno essere case di classe A, come si dice, è chiaro, qui servono persone competenti e già oggi c'è la formazione, le stesse aziende che producono nuovi materiali edili, fatti per esempio con gli scarti del legno, perché sono mattoni, come dire, più sicuri anche dal punto di vista della stabilità, pensiamo al tema dei terremoti, ovviamente sono più isolanti. Mettere in opera questi nuovi materiali con nuove tecnologie richiedono operai, richiedono ingegneri, richiedono geometri con nuove competenze e tutto questo è quello che oggi sta accadendo nel mondo della green economy e della formazione verso la green economy. Come mai secondo lei, per concludere Marco Gisotti, non c'è questo incontro tra domanda e offerta ancora, cioè c'è paradossalmente più offerta, anzi più domanda di manodopera, più domanda di lavoro, cioè si cercano persone e però poi i ragazzi non si buttano in questo settore, non ha appeal ancora, oppure è un settore come lavorare in campagna, per esempio, sono settori faticosi, l'edilizia, lei citava, no? E quindi magari i ragazzi vorrebbero tutti fare un lavoro di impiego. Perché secondo lei manca questo? Un po' perché non si spiega ai giovani che cosa è il lavoro, spesso si finisce la scuola e non si ha idea, voglio fare l'astronauta ma non so cosa fa l'astronauta, figuriamoci se so cosa fa oggi un nuovo agricoltore o cosa fa oggi un nuovo ingegnere o un nuovo architetto. È evidente che bisognerebbe spiegarlo di più, bisognerebbe fare un vero orientamento al lavoro ai giovani e verso quei lavori dove effettivamente si trovano. ripeto, un quarto delle aziende, cioè quelle che oggi in Italia resistono meglio alla crisi, quelle che sono più avanzate dal punto di vista tecnologico e dei prodotti, sono le industrie verdi. E allora bisogna andare, come abbiamo fatto noi anche in questi due giorni qui a Milano, spiegare, incontrare i giovani e fare incontrare i giovani le imprese. E va bene, insomma, il nostro suggerimento lo abbiamo dato e ridato, perché a dire la verità, insomma, non è la prima volta che ne parliamo. Grazie al coordinatore del Salone Internazionale Green Jobs che si è svolto a Milano. Ben ritrovati cari ascoltatori con le storie di Si Può Fare. Siamo partiti questa settimana, oggi domenica, dal abbattimento dell'ecomostro in provincia di Agrigento. Una bella notizia, specialmente perché in questo caso, insomma, l'ecomostro era di proprietà dell'assessore, di uno degli assessori della giunta di Realmonte, ma ci hanno assicurato che andranno avanti lo stesso e li abbatteranno entro 90 giorni. Poi ci siamo spostati ad Alessandria per un caso tra volontariato e lavoro, insomma la storia di Antonino che ci ha insegnato che si può fare anche questo, vivere tra il volontariato e una borsa lavoro. Lui va in giro per la città portando i cibi deperibili che altrimenti sarebbero invenduti dei vari negozi e li porta a chi ha bisogno. Poi abbiamo fatto una disamina, insomma, delle nuove occupazioni nella green economy. Avete sentito, ci sono tante opportunità di lavoro, però bisogna smetterla di laurearsi in economia e bisogna andare a studiare chimica o altre cose. Insomma, questi suggerimenti, e poi noi aspettiamo anche le vostre segnalazioni durante la settimana sulla pagina Facebook Si Può Fare - Radio 24 del programma. Venite a trovarci e lasciateci le vostre segnalazioni. Adesso, tra poco, con un'altra storia. You know what I'm saying? Happy, it's so nice to be happy. Everybody should be happy. Essere felici, chi non vorrebbe essere felice? È un po' l'obiettivo di tutti, in fondo di tutti noi. A Melpignano, piccolo comune in provincia di Lecce, ci stanno provando, ci proveranno in maniera però scientifica, con metodo, con un progetto. Ne parliamo con il sindaco di questa piccola cittadina, Ivan Stomeo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Sindaco di Melpignano, nonché presidente dell'associazione Borghi Autentici d'Italia, che sta lanciando questo progetto per i borghi felici, un progetto che prevede varie cose, tra l'altro anche di misurare il benessere delle persone non solo in base ad indicatori economici ma anche altri. Adesso lei ci spiegherà una cosa su cui si sono cimentati in tanti. Prima di tutto però, che cosa avete suggellato qualche giorno fa in Consiglio Comunale? Beh, in Consiglio Comunale, insieme a un altro comune del nord d'Italia, Saluzzo, in provincia di Cuneo, abbiamo approvato le linee programmatiche del Borgo della Felicità e stiamo mettendo su un gemellaggio tra queste due comunità così lontane ma così vicine nell'idea, nel progetto di rendere felici i propri concittadini. Saluzzo è una grande città, un paese di 18.000 abitanti, Melpignano è un paesino di 2.300 abitanti, nord e sud, ognuno con la sua storia, con la propria storia, però ci stiamo provando a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Migliorare la qualità della vita dei cittadini, facciamo qualche esempio per renderci più chiari, sindaco, di cosa stiamo parlando? Quali sono alcune di queste linee guida? Sì, noi siamo convinti come Associazione Borghi Autentici d'Italia che bisogna invertire in qualche modo la tendenza, no? Come accennava prima lei, non più sugli indicatori di benessere solo ed esclusivamente, che è importante, la ricchezza di un borgo, di una città, quindi il PIL, certo, la ricchezza interna, ma lo stato di benessere, il tasso di gioia dei propri concittadini. Per rendere i cittadini felici, per far star bene i propri concittadini, e questo deve essere il primo obiettivo di chi ha un compito di governare una comunità, quindi come nel mio caso e come nel caso del sindaco Allemano di Saluzzo, noi abbiamo il dovere di far star bene i nostri concittadini. Vabbè, quindi però detto così è un po' impegnativo. In realtà sono progetti anche molto concreti, però ci faccia qualche esempio, così ci capiamo meglio. Stavo arrivando, ecco. All'interno di questa cornice del Borgo della Felicità ci sono tutte quelle buone pratiche che vanno dalle smart cities alla rigenerazione urbana, alla conservazione e alla valorizzazione della propria autenticità, sì, alla innovazione tecnologica, alla coesione sociale. Quindi questi sono temi importantissimi che stanno all'interno di questa cornice. La felicità è intesa come indicatore, ripeto, non fine a se stessa. Non è che dal giorno dopo abbiamo fatto il consiglio comunale a Melpignano sono tutti felici. Ecco, no, magari si potesse fare la felicità per decreto, per ordinanza del sindaco, sarebbe più semplice, anche più economico forse. Lei ci raccontava, prima di fare l'intervista, che voi, prima ancora di lanciare questo progetto che avete in cuore da tempo, lì a Melpignano, avete già sperimentato che cosa vuol dire, per esempio, una cooperativa di comunità dove si coinvolgono i cittadini nella creazione e gestione di alcuni servizi, creando risparmio economico ma anche partecipazione. Ce ne vuol parlare? Sì, noi abbiamo messo su insieme a Lega Coop Nazionale, a Borghi Identici d'Italia, dicevo, stiamo sperimentando questo nuovo modello di cooperazione, che sono le cooperative di comunità. In poche parole, le cooperative di comunità sono quelle cooperative dove i cittadini di quel borgo si mettono insieme per autogestirsi, autogovernarsi, diciamo. A Melpignano abbiamo sperimentato la prima cooperativa di comunità in Italia basata su un progetto importantissimo, che è quello del fotovoltaico diffuso sui tetti, compatibilmente col contesto urbano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato nella piazza del paese 71 soci fondatori, tra cui l'amministrazione comunale, e abbiamo costituito la prima cooperativa di comunità in piazza, col notaio, con tanto di statuto e tanto di atto costitutivo. I cittadini hanno messo a disposizione il proprio tetto per ospitare un impianto fotovoltaico, sì, per avere l'energia gratis per i prossimi 20 anni. Poi ci sono all'interno dei soci lavoratori, ci sono ingegneri che si occupano di fotovoltaico, ci sono gli elettricisti che hanno montato gli impianti, ci sono, certo, i fabbri. Quindi tutta questa operazione abbiamo creato in questo modo una piccola economia virtuosa, perché escluso il pannello fotovoltaico che a Melpignano non si produce, il resto è rimasto tutto nella comunità di Melpignano. Quindi praticamente ognuno mette quello che ha a disposizione, o il tempo, o la propria capacità professionale, la mano d'opera, il tetto di casa per ospitare, quindi, in questo caso i pannelli, e poi i ricavi, diciamo, vanno alla comunità. Noi per statuto quei ricavi, cioè gli utili, una volta coperto il mutuo con banca etica, diciamo, sì, l'esposizione in banca, perché stiamo parlando su 32 impianti che abbiamo realizzato di circa 450.000 euro che noi ci siamo dotati di un mutuo, la cooperativa insieme a tutti i cittadini, quindi i cittadini non hanno speso nulla, abbiamo fatto un mutuo con gli incentivi, col vecchio conto energia, ci paghiamo il mutuo, ma poi rimane l'utile di tutta l'operazione. Senta, sindaco, ma certo, ma voi praticamente più che sperimentare nuovi progetti, voi siete già felici, perché me lo consenta. Cioè, da quello che ci sta raccontando, praticamente bisognerebbe che lei tenesse dei corsi insieme a quelli che hanno fatto questa iniziativa anche in comuni più grandi. Sto girando l'Italia a raccontare questa storia, perché secondo me è una storia, un progetto rivoluzionario che mette al centro dello sviluppo del borgo la persona. E questo è straordinario. Ma secondo lei tutto questo potrebbe anche essere esportato in città, non dico che noi siamo a Milano, poveretti, ma anche in qualche città un po' più grande di Melpignano, perché lì siete veramente quattro gatti, mi consenta, siete in 2000, è più facile... Quello sicuro, però vuol dire, se ragionassimo in un contesto più grande, secondo lei si può fare cooperative di quartiere, quindi potremmo mettere insieme i cittadini di un quartiere e ragionare in piccolo, anche in una grande città. Quindi secondo lei, per chi fosse interessato, amministratori, sindaci, assessori che magari ci stanno ascoltando, il punto di partenza potrebbe essere quello di ragionare sempre su piccoli territori, i quartieri per esempio, partire da... Perché no? Secondo me sì, è un'esperienza esportabile dappertutto. Borgo Identici d'Italia è a disposizione di qualsiasi borgo, di qualsiasi città. Va bene, insomma, buon lavoro per tutto. So che poi il prossimo step sarà quello di coinvolgere anche le scuole, perché si punta sul futuro. Ci sono progetti. Abbiamo già è coinvolto. Il 17 ci sarà il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Melpignano, che approveranno le stesse linee guida che abbiamo approvato noi alcuni giorni fa. Tutti a Melpignano. Cosa fate se si trasferirà in massa tanta gente? Li accetterete oppure... Beh, ma guardi, noi ogni ultimo sabato del mese di agosto ospitiamo 120.000 persone con la notte della Taranta, quindi a queste grandi sfide siamo... Siete pronti, è certo. Va bene, grazie, buon lavoro per grazie tutto, a presto. Grazie a voi, buon lavoro, salve. Miglia di volti fra i campi e sui prati, lagune e piroghe e le terra mare, guerrieri del nord dai capelli gessati, ne hai visti passare. E miglia allungata tra l'olmo e il vigneto, voltata a cercare quel mare mancante, e il monte Appennino raccontando un segreto diventa un gigante. Lungo la strada tra una piazza e un duomo, hai messo al mondo questa specie d'uomo. Vero, aperto, finto e strano, chiuso, anarchico, verdiano, brutta razza, l'Emiliano. Emilia sognante! A sei mesi, poco più, dal terremoto in Emilia, anche Radio 24 ha cercato di darsi una mossa. Come avete sentito durante la settimana nella nostra programmazione, una programmazione speciale dei viaggi nei nostri giornali radio, ma anche un appuntamento in diretta il 14 dicembre dalle 21 alle 23. E torniamo nei luoghi del terremoto per vedere qual è la situazione adesso, per non lasciare sola l'Emilia Romagna, per raccontare anche le storie che vengono da questa terra che è stata colpita purtroppo dal terremoto. E allora ritroviamo anche un ospite che avevamo salutato qualche tempo fa, qualche mese fa, per un'iniziativa che era nata nello spirito anche del programma Si Può Fare. E adesso vediamo come sta andando con Alberto Franchini, fondatore del sito facciamoadesso.it. Alberto, buongiorno. Buongiorno Alessio. E allora, ci eravamo trovati quando, a credo poco più di un mese forse dal terremoto, almeno noi ci eravamo accorti di questa notizia, ma voi siete partiti subitissimo, avete messo in piedi questa iniziativa per aiutare le imprese, soprattutto perché questo è stato davvero anche il terremoto che ha colpito anche le attività economiche, oltre purtroppo a fare delle vittime. E adesso poi ci rispiegherà Alberto il senso di questa iniziativa. Vogliamo sapere anche come sta andando, un'iniziativa che poi è stata premiata anche dal governo, credo, con un riconoscimento per l'originalità. Facciamo un passo indietro. Cosa accadde subito all'indomani del terremoto e come voi vi eravate messi a lavorare su questa cosa? Sì, ti ringrazio intanto per l'interesse verso l'iniziativa che continua ad andare avanti. Noi ci occupiamo di consulenza direzionale in azienda e quindi ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare, visto la nostra sensibilità alle aziende che erano state coinvolte dal terremoto. E l'idea era proprio stata quella di cercare di dare una piccola possibilità in più alle imprese di trovare nuovi clienti sostanzialmente. Il tema è quello che il terremoto ha avuto impatto sia sulle strutture, ma anche sulla rete sociale, ma anche sulla rete dei clienti. Quindi tuttora in queste zone il tessuto di relazione tra aziende che vendono e aziende che comprano, o cittadini o consumatori, è in qualche modo danneggiato. Quindi l'idea è di creare un nuovo canale. Da qui abbiamo messo in rete una rete di imprese che volontariamente hanno puntato su questo tipo di iniziative. Quindi è nato questo portale che si chiama appunto Facciamo Adesso. L'idea era di fare qualcosa immediatamente, che ha visto il patrocinio di comuni, associazioni di categorie, è stato poi intestato all'Assemblea Legislativa perché si voleva dare evidenza alla copertura no profit in qualche modo, il fatto che l'intento era quello di dare una possibilità in più gratuitamente alle imprese, ed è un portale che a questo punto vede la presenza di 75 aziende circa, molti commercianti e piccole imprese. E ad oggi i prodotti che vengono proposti su questo portale, che sono di qualsiasi tipo, possiamo dire, cioè si va da alimentare, abbigliamento, sì, a stufe, piuttosto che c'è un po' di tutto, insomma, quant'altro, ci sono 692 tipologie di prodotto, questo per dire che l'offerta è decisamente ampia. Quanto, se siete in grado anche di fare un bilancio, avete movimentato, anche se ricordiamo che questa iniziativa è un'iniziativa che vuole facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta, non è un vero e proprio sito dove si paga. Tra l'altro facciamo adesso, avete condiviso il nome anche con un pezzettino di campagna elettorale di Renzi, che appunta tutto su adesso, però voi siete arrivati prima. Siamo arrivati prima, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Comunque un'idea forte di marketing, anche se vogliamo, di così, che comunica questa sensazione di fare con una certa impellenza, ecco, e anche con la positività che vi contraddistingue, anche come emiliani, questo si può dire, è un luogo comune, ma è proprio anche la verità. Quanto avete movimentato, contribuito? C'è un, si può fare già un bilancio? Questo legato proprio alle caratteristiche del sito, che come tu dicevi non è un e-commerce, nel senso che non avvengono transizioni economiche sul portale, questo proprio perché il senso d'urgenza che ci aveva mosso ha portato alla scelta di andare su un portale che mettesse in contatto le aziende con i consumatori o comunque gli acquirenti, quindi noi non siamo in grado di fare di dare una cifra, insomma, sì. Di dare una cifra, e quello che sicuramente sappiamo è che tra l'altro la rete di contatti che si è sviluppata sul portale è minimale rispetto poi a quello che è successo sul territorio. Ad esempio, parlando con imprenditori a cui abbiamo chiesto, ma a noi non risultano avvenuti contatti sul portale, la risposta spesso è stata no, però sono arrivate persone, cioè mi hanno telefonato, e quindi c'è tutto un, diciamo, una rete di relazioni. Cioè è stata anche una vetrina che avete offerto in qualche modo alle aziende, e poi di lì si sono messi in moto dei contatti, a prescindere poi da, anche dal sito. Tra l'altro, sì, e questo, scusa, sì, adesso è proprio nello spirito dell'iniziativa, cioè l'idea era quello di dire aiutiamo le imprese a trovare dei nuovi clienti, perché i clienti tradizionali in questo momento, specialmente per le aziende che si muovono sul territorio locale, hanno la testa assolutamente da un'altra parte. Aggiungo un ultimo elemento, scusa, nel dare valore all'iniziativa, almeno per come anche noi la stiamo leggendo a distanza di tempo, il fatto che diversi imprenditori ci hanno detto guarda, io non è che abbia venduto chissà che cosa grazie al portale, però in quel momento avere l'attenzione su questa iniziativa, il fatto di dire posso ricominciare intanto che mi riorganizzo nella modalità tradizionale ad avere rapporti con i clienti, a proporre i miei prodotti e quant'altro, per me è stato importante, perché mi ha portato a rimanere attivo come imprenditore, per cui a noi era venuto in mente anche questo concetto di aiutare a mettere in sicurezza lo spirito imprenditoriale, un po' come si mettono in sicurezza le strutture. E adesso che siamo alle porte del Natale, il portale è ancora aperto e può essere anche utile trovare dei suggerimenti per chi volesse utilizzarlo per fare dei regali, per spendere, per investire in queste settimane. Cosa c'è adesso sul sito che può essere interessante in questo senso, Alberto? Giustamente, come dicevi, il Natale stiamo cercando di cavalcarlo a favore delle imprese presenti in modo deciso, e diciamo che ci sono due filoni, uno legato alle confezioni, ai regali natalizi, e su questo, ecco qua ti posso dare qualche numero, nel senso che siamo partiti da diverse settimane e siamo già intorno ai 1000 pacchi di Natale che aziende hanno comprato attraverso Facciamo Adesso per fare regali ai loro fornitori. È già un bel numero, detto così. Sì, anche perché sto parlando solo proprio di confezione finita. Sì. A questo si aggiungono poi tutti i prodotti che sono stati comprati dalle aziende per inserirli nei loro pacchi, mettiamo, solidali. L'altra cosa disponibile sul portale in questo momento è proprio una vetrina di regali di Natale, nel senso che abbiamo chiesto e dato la possibilità a tutte le aziende presenti di indicare, di suggerire al pubblico, ai possibili compratori, alcuni prodotti che loro hanno sul portale che ritengono si prestano particolarmente per dei regali. E allora, insomma, ricordiamo il nome facciamoadesso.it, il nome del portale al quale si può andare facendo una scelta di solidarietà nei confronti delle aziende colpite dal terremoto in Emilia-Romagna. Ricordo anche l'appuntamento il 14 dicembre in diretta dalle 21 alle 23, ma poi gli speciali su Radio 24 saranno anche altri. Saluto Alberto Franchini. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, in bocca al lupo, bocca al lupo, e ci risentiremo sicuramente. Lupa è a Roma, non è in Emilia Romagna. Esatto, abbiamo sbagliato in questo caso. E ci fermiamo qua anche per quanto riguarda la puntata di oggi. Io voglio ringraziare Franco Piantarida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo sabato prossimo a mezzogiorno, si può fare. Da Alessio Maurizi l'augurio di una buona domenica.